un hip hop petaro. Sniffa polvere da sparo. Dice che un tipo è capace per quanti buchi ha nel torace. Lo capisco, ma preferisco Carol. Artisti di artisti muscolosi, orgogliosi dei loro trascorsi malavitosi. Vanitosi, ripresi con pose da bellicosi. Mentre io sono fiacco ed ho la mononucleosi. Studio in una classe di rissosi. Eccitati dai globuli rossi, manco fossero bella rugosi. Tieni presente che sono commosso cerebralmente da gente eccessivamente affettuosi. A 16 anni le opzioni sono due, visto che o diventi pugile o diventi come me. Che sono debole, che non ho regole, che ho roba demode, che detesto i cliché dell'uomo che non deve chiedere mai. Dato che se non chiedi non sai. Dato che adoro Warhol e Wild. Dato che se mi cerchi mi troverai nel via vai di un gay pride. Ma sappi che se mi provocherai sono guai. Dottor Jekyll diventa Mr. Hyde e t'ammazza stecchito con Ride. Trovo molto interessante la mia parte intollerante, che mi rende. E tornando in voce, insomma, lasciamo da parte il ministro e le sue esternazioni e passiamo alle cose serie, insomma, se così si può dire, e cioè all'argomento di oggi, insomma, che vorremmo cercare di trattare. Siamo in diverse persone qui in studio e vorremmo parlare del concorso di cui difficilmente chi ci ascolta non avrà sentito parlare, perché sui media c'è stato un gran tantam su questo concorso per docenti che da precari attraverso il concorso dovrebbero divenire, insomma, acquisire un posto di lavoro, oppure anche da non abilitati divenire abilitati e ugualmente avere un posto di lavoro. Insomma, il concorsone del ministro Profumo di cui tanto si è sentito parlare. Solo due parole, insomma, per introdurre questo argomento. Innanzitutto, seguendo i dati del Ministero della Pubblica Istruzione, sostanzialmente parlando di precari e precarie della scuola, si parla di 120.000 persone attualmente stanno lavorando in questo paese, togliendo gli insegnanti di religione che fanno proprio parte di un'altra cosa, ma un giorno ne parleremo. E poi ci sono ovviamente gli inoccupati e le inoccupate che non hanno neanche appunto un incarico a tempo determinato. Chi sono i precari della scuola? Come lo sono diventati? Soprattutto, insomma, quello che c'è da dire subito è che la materia di cui si va a parlare è molto molto confusa da questo punto di vista, nel senso che negli ultimi 13 anni, cioè dal Ministero di Berlinguer in poi, le modalità con cui si è potuto avere accesso al lavoro come insegnanti sono cambiate molte volte. Nel 99 ci fu l'ultimo concorso a cattedra, cioè l'ultimo concorso simile a quello che si sta aprendo in questi giorni, che dette luogo a due gradatorie, quella del concorso cioè quella per cui si aveva subito un posto, e quella invece che permetteva di entrare in graduatorie che al tempo si chiamavano permanenti, dando visto evidentemente si dava per scontato che sarebbero durate in eterno queste graduatorie, visto che si chiamavano permanenti. Però parallelamente, proprio contestualmente, nello stesso periodo, il ministro Berlinguer aprì anche le SIS. Le SIS, che cioè la scuola di specializzazione per l'insegnamento superiore, secondario superiore, una scuola che durava 2 anni a pagamento, ovviamente a frequenza obbligatoria, che quando fu indetta non era abilitante, cioè non costituiva titolo per poter poi entrare nella scuola. L'anno dopo diventò abilitante e poi ha avuto 9 anni di è stata indetta per 9 volte la SIS, ma parallelamente alla SIS e parallelamente al concorso ci fu anche un corso concorso abilitante a cui si accedeva avendo svolto un tot di giorni di insegnamento nell'arco degli anni precedenti, sostanzialmente. Quindi si diventava insegnanti con 3 modalità diverse: il concorso, la SIS e il corso concorso. Sostanzialmente, appunto, dopo 9 cicli di SIS, che fra l'altro la gente che usciva dalla SIS si poteva iscrivere in graduatoria, con riaperture della graduatoria però fluttuanti, che non si sapeva mai quando avvenivano, quindi ti poteva andare bene e tu ti abilitavi il giorno in quell'anno poi entravi in graduatoria, oppure aspettavi 2 anni. Questo non è mai stato, come dire, omogeneizzato come processo. Intanto si assumeva il ruolo da 2 canali, cioè dagli abilitati del concorso del 99 e da chi usciva dalle SIS. Si assumeva il ruolo, cioè si acquisiva un posto a tempo indeterminato. Nel 2007 il ministro era Fioroni, quindi del centro-sinistra, cambia nome alle graduatorie e le chiama graduatorie ad esaurimento. Il progetto del ministro era evidentemente quello di assumere tutti e tutte quelle che stavano nelle graduatorie per poi chiuderle. Fatto sta che poi il governo non è durato a sufficienza perché questo potesse accadere. Le graduatorie ad esaurimento ci sono anche oggi, quindi sono durate ben più di Fioroni. Nel frattempo poi diventa appunto ministra la Gelmini, oltre a tutti quei misfatti a cui abbiamo accennato nella puntata scorsa e a cui accenneremo a lungo, credo, ha chiuso le SIS, quindi ha chiuso la possibilità di abilitarsi perché si era laureato dopo il nono ciclo di SIS, e fino a quest'anno, quindi fino a quando avevamo già il ministro Profumo, non c'è stato modo di abilitarsi, più o meno dal 2009 a adesso. Mentre Profumo cosa fa? Innanzitutto istituisce il TFA, tirocinio formativo attivo, che era un'idea della Gelmini che lui riprende, o perlomeno che la porta a termine, insomma, e cioè una specie di nuova SIS più corta ma più cara, perché dura un anno ma costa 2.500 euro, con pochissimi posti, con un concorso farsa per accedervi, che peraltro è ancora in corso, non è ancora finito il concorso per accedervi, ma contemporaneamente bandisce un concorso per docenti. Non per tutti e tutte le docenti, però, bandisce un concorso a cui si può accedere se laureati entro il 2003, anche senza abilitazione. Se laureati dopo il 2003, invece bisogna essere anche abilitati, non è più sufficiente la laurea come titolo d'accesso. E questa è la situazione ad oggi. Le iscrizioni al concorso si sono aperte da pochi giorni, non sono ancora chiuse, e quindi i tempi che il Ministero ha dato sono molto ristretti. In realtà pensano di fare tutto, a quanto ho capito, entro gennaio o qualcosa del genere. Fatto sta che di questo concorso se ne è parlato molto, e se ne è parlato in particolare il 22 settembre anche da questi microfoni, perché c'è stata una manifestazione nazionale dei precari e delle precarie della scuola che si oppongono all'espletamento di questo concorso. E qui in Radio Onda Rossa con noi abbiamo Carlo, che è un compagno del coordinamento precari della scuola, e a cui aspetta, perché ti ho fatto di buonasera ma non ti avevo aperto il microfono, quindi se vuoi risolvere. Ciao, buonasera. E l'altra cosa che ti chiedo è di parlare molto vicino al microfono. Sì. E niente, innanzitutto Carlo, vogliamo che tu spieghi a noi e soprattutto a chi ci ascolta perché c'è un'opposizione determinata, insomma, a questo concorso. Sì. Allora, dunque, io prima di dire perché noi ci opponiamo, diciamo, nel dire perché ci opponiamo vorrei in qualche modo, come dire, smentire alcune delle voci che il ministro ha fatto appositamente circolare, sia nelle sue dichiarazioni e che poi sono circolate anche per mezzo dei giornali, soprattutto i giornali filo governativi. Hanno fatto un quadro diciamo abbondantemente falso. Io ci terrei, ecco, in primo luogo a, come dire, a rettificare una serie di informazioni per gli ascoltatori, e alcune le hai già dette tu, poi le ribadirò. Io intanto ci terrei a dire questa cosa. Questo, ecco, partiamo da questo punto, che è un punto, diciamo, secondario, però non ininfluente sul piano della propaganda. Questo non è un concorsone. Ecco, cioè il termine concorsone è del tutto inappropriato per questa iniziativa del governo. I numeri li hai detti tu, però li vorrei un attimo mettere un po' a confronto. Annualmente i contratti a tempo determinato che la scuola pubblica fa, quindi il numero di lavoratori precari, di insegnanti precari che lavorano nelle scuole italiane e che mandano avanti la scuola italiana va avanti grazie a loro, oltre ovviamente agli insegnanti a tempo indeterminato, oscillano tra i 100.000, quest'anno tu citavi il dato dei 120.000 contratti. Era dell'anno scorso, per la verità. Dell'anno scorso, ok. Quindi diciamo annualmente, come dire, il numero di posti liberi, poi ricordiamo che non tutti i posti sono a orario pieno, però insomma il numero di posti liberi si aggira intorno ai 100.000. Ecco, di fronte a questa enorme massa di precari, di questa enorme massa di posti vuoti, il concorso mette a bando 11.800 e qualcosa. Quindi tutti gli ascoltatori possono capire che definire concorsone questa iniziativa è del tutto inappropriata, in quanto manterrebbe il fenomeno tipico della scuola italiana, che è quello di reggersi sul lavoro precario, su lavoratori precari e su lavoratori che non hanno continuità e che tutti gli anni vedono cessare il proprio rapporto di lavoro alla fine dell'attività scolastica. Ecco, quindi questa io direi che è una prima cosa da dire, cioè questo concorso non sanerà assolutamente, nella maniera più assoluta, il fenomeno del precariato nella scuola. Anzi, sostanzialmente, poi come cercherò di argomentare dopo, secondo me, secondo noi, lo consoliderà in un certo senso, lo camufferà. Ecco, quindi da dove escono fuori questi 11.800 posti? Gli 11.800 posti sono esclusivamente il numero di persone che andrà in pensione nei prossimi 3 anni. Ricordiamo che grazie alla riforma delle pensioni questo numero va scendendo sempre di più. Io ho colleghi che dovevano andare in pensione l'anno scorso e andranno in pensione dopo 6 anni, dopo 5-6 anni. Quindi in realtà questi 11.800 posti saranno spalmati su 3 anni e copriranno esclusivamente i pensionamenti, quindi sono sostanzialmente a costo zero, e quindi da qui viene fuori, come dire, un'immagine del cosiddetto concorsone come un'iniziativa di stampo, diciamo, sostanzialmente di immagine, propagandistico. Oh. Quindi poi tu mi dicevi perché noi ci opponiamo. Anche in questo caso parto da una rettifica, poi magari voi interrompetemi se vado troppo a lungo. Vai, se... tranquillo. Ok. Parto da una rettifica. Anche in questo caso parto da interviste rilasciate a Repubblica, dal Ministro, da articoli anche di commentatori del Corriere della Sera che hanno appositamente, volutamente confuso le acque. Come tu hai bene illustrato prima, nelle graduatorie non ci sta gente che ci è capitata per caso dentro queste graduatorie. Ecco, l'immagine che il Ministro ha dato è questa, la riassumo molto brevemente. C'è stato l'ultimo concorso nel 99-2000, quello è stato l'ultimo momento in cui, diciamo così, il personale della scuola veniva in qualche modo reclutato attraverso un sistema razionale di, come dire, di reclutamento che selezionava in qualche modo questo personale. Dato che da quel momento non c'è stato più niente, le graduatorie si sono riempite di persone semplicemente laureate che hanno fatto questa, si sono infilate dentro queste graduatorie, quindi le graduatorie non sono un sistema, diciamo, in qualche modo selettivo, e vengono assunti dalle graduatorie persone che non sono state, come dire, che hanno scelto l'insegnamento così, che si sono trovate a farlo. Ecco, questo è una cosa, come dire, questa visione è non soltanto completamente falsa, ma noi precari della scuola la valutiamo come profondamente offensiva nei confronti di lavoratori che, come ripeto, mandano avanti da anni la scuola in Italia. Cioè, quindi garantiscono, questo ci tengo molto a dirlo, garantiscono che il diritto allo studio sia appunto garantito in Italia a tutti quanti i giovani. Tutte le persone che tu hai, appunto, a cui tu accennavi, le persone che sono nelle graduatorie hanno fatto tutti quanti percorsi che le hanno selezionate. Io ho fatto la SIS, che è questa scuola di specializzazione a cui tu facevi riferimento, quindi ho impiegato 2 anni della mia vita dopo la laurea a studiare in questa scuola di specializzazione che non ti permetteva di lavorare. Era una scuola a numero non chiuso, ma chiusissimo. Io ho fatto un test d'ingresso, come dire, che non auguro a nessuno, ecco, estremamente nozionistico, molto duro. Io al tempo lo contestavo molto, però fu comunque una prova che in qualche modo noi abbiamo dovuto superare e sostenere. Nella SIS, nell'arco dei 2 anni, ci hanno fatto fare verifiche continuamente e alla fine abbiamo fatto un esame di Stato che per avere l'abilitazione prevedeva l'estrazione di 3 argomenti a caso e la diciamo l'organizzazione estemporanea di un percorso didattico su uno di questi 3 argomenti. Queste cose che sono un po' noiose, io le dico agli ascoltatori però per chiarire, come dire, il percorso che noi abbiamo fatto di scelte, di investimenti, di energie e di denaro, di sacrifici fatti dalle nostre famiglie o da chi lavorava al tempo. Poi sono 7 anni che sto nella scuola e 7 anni che insegno come precario nella scuola. Quindi moltissimi hanno fatto lo stesso percorso mio, che è questo qua delle scuole di specializzazione. Molti hanno fatto il concorso del 99. Ecco, non scordiamocela questa cosa. Il concorso del 99, diciamo, lo vinsero in molti. C'erano in realtà pochi posti a disposizione, quindi moltissimi hanno dovuto aspettare anni, molti stanno ancora aspettando, adesso si vedono, come dire, messi nella condizione paradossale di dover rifare il concorso, perché poi non scordiamocelo, la graduatoria del vecchio concorso sarà cancellata, annullata da una nuova graduatoria. Se quindi, posso interromperti, sì, un attimo, tu dicevi prima appunto che è stata fatta molta propaganda, c'è stato gettato molto fumo e disinformazione, dicevi soprattutto dai giornali filogovernativi. Io volevo riportare un piccolo brano di un sito che invece non si pone come filogovernativo e che è sbilanciamoci.info. Sì, lo conosco quell'articolo di Sbilanciamoci. Questo secondo me è un, come dire, la testimonianza di come alcune idee poi attecchiscono pure in, come dire, ambienti che si vorrebbero di sinistra, no? L'abbiamo letto, comunque sì, citalo. Il passo, che è di Fiorella Farinelli, dice che per partecipare a questo, la sua polemica è contro il fatto che non sia aperto a chi non si è abilitato dopo il 2003, e il problema è come la sostanzia questa sua critica, dicendo che in sostanza lei dice per partecipare bisogna non essere ignoti, avere appartenenze sindacali, disporre di protezioni politiche, essere importanti dunque per il consenso, e questa è proprio una falsità. Sì. Sì, diciamo che quest'articolo adesso non so se hai detto, insomma, hai fatto molto bene a citarlo, non so se ne vogliamo parlare. A me, insomma, aveva colpito molto una cosa, insomma, cioè che sostanzialmente veniva sussunta la visione che il governo ha voluto dare delle cose. Mi ha colpito moltissimo anche appunto adesso, insomma, lo cito soltanto così di passaggio, la cosa che diceva sul sindacato, cioè il sindacato visto semplicemente come una struttura corporativa che difende corporazioni, che poi saremmo noi, la corporazione saremmo noi dei precari, i precari storici, cioè le persone che leggevano quell'articolo a un certo punto hanno la sensazione che Profumo avesse bandito il concorso su pressione dei precari storici, che a questo punto non si capisce nemmeno bene perché poi hanno fatto la manifestazione del 22 contro il concorso. Quindi ecco la sostanza, ecco, adesso cerco di farla breve. Per noi precari delle graduatorie, ma anche per molti precari non delle graduatorie, quindi non abilitati, ma che lavorano da anni nella scuola, non scordiamocela questa cosa. Alcune graduatorie sono, diciamo, vengono esaurite, non ci sono abilitati e vengono chiamati anche insegnanti non abilitati che da anni stanno nelle graduatorie, scusatemi, che lavorano da anni nelle scuole pur non avendo l'abilitazione. Noi la riteniamo un'umiliazione in primo luogo perché il nostro percorso è una scelta di vita ormai molto definita. Io lavoro da 7 anni, ho anche riconoscimenti da parte degli alunni, lavoro, come dire, mi impegno sempre moltissimo e non ritengo, anzi ritengo umiliante, dover ulteriormente dimostrare che quel posto dove lavoro e nel quale mi impegno quotidianamente io me lo merito in qualche modo, mi spetta. Io ritengo che dopo il mio percorso, dopo le scelte di vita, lo sforzo e l'impegno che ho fatto, quel posto mi spetta di diritto. In quanto appunto io non è che sono, come dire, contro qualsiasi forma di valutazione, ma noi siamo stati già, come dire, ampiamente valutati. Quindi questo direi che è l'umiliazione inflitta a chi da anni si impegna nonostante tutte le condizioni veramente peggiori in cui l'hai messo e nonostante tutto si impegna a mandare avanti la scuola. Ecco, io direi che questo è il punto da cui personalmente mi sentirei di partire. Bisognerebbe fare delle considerazioni di ambito più generale. Se vuoi le faccio, se no ci posso fermarmi e darvi la parola e poi andiamo. Carlo, mandiamo un pezzo che mi pare perfetto per questo che hai detto. Dedichiamo al ministro Profumo una canzone per smentire questa propaganda che lui sta facendo di insegnanti che non si vogliono far giudicare. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo so. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. Come chi lo sa perché? Ognuno ha il diritto di vivere come può. Per questo una cosa mi piace, quell'altra no. Se sono tornato a te, ti basta sapere che ho visto la differenza tra lui e te ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che solamente tu sei la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché? Sta di casa qui la felicità. Molto, molto, molto più di prima io t'amerò. E in confronto all'altro sei meglio tu. D'ora in avanti prometto che quel che ho fatto un dì non farò mai più. Torniamo in voce, c'è un ascoltatore che dovrebbe sentirci. Ci sei, pronto? Sì, buonasera agli ascoltatori, sono Piero Castello di Cobas, della scuola anche, e è un po' che sono all'ascolto, ma mi sembra che ci sia un argomento che non viene utilizzato da chi sta alla radio, che è fondamentale secondo me. Il fatto che la media annuale dei pensionati che escono dalla scuola si aggira intorno ai 20.000, qualche volta di meno, 15.000, qualche volta addirittura 30.000, però per dire che questo eventuale concorso non serve nemmeno a soddisfare la necessità di turnover, ossia queste assunzioni ormai da anni che ogni anno il Ministero centellina a poche centinaia, a poche migliaia, non fanno che accrescere il precariato, perché non riescono nemmeno a soddisfare la domanda che viene da una scuola consolidata che ha quei suoi 750.000 lavoratori e che fisiologicamente ogni anno se ne vanno via appunto una media di 20.000 lavoratori, 15. Siamo lontani anche soltanto da soddisfare la domanda che non cresca perlomeno il precariato. Qui siamo al di sotto e facciamo ancora crescere il precariato. L'altra cosa che mi interessava dire è che io sento molte argomentazioni, però forse mi è sfuggito all'inizio, non l'hai detto, ma secondo me è essenziale che tutto il mondo dei precari della scuola si unifichi a una parola d'ordine, che non può essere che quella dell'assunzione a tempo indeterminato di tutti i precari su tutti i posti vacanti. Questo, diciamo, soddisferebbe ben più di ogni altra di ogni altro tipo di assunzione e sarebbe quella più legittima. I precari, perlomeno tutti quelli abilitati, verrebbero assunti se soltanto si adottasse, evitando così di confliggere tra segmenti diversi del precariato. Io quindi Piero, insomma, se non eravamo a sentire anche la vostra idea su questa, che secondo me è il fondamento della lotta dei precari, quella di avere l'assunzione a tempo indeterminato, stando attenti alle parole d'ordine false come la stabilizzazione, che spesso non è altro che la stabilizzazione del precariato, per cui si rimane precari a vita, no, però stabilizzati, che poi significa poco, perché al momento in cui viene una legge che dice, decide di cacciarli fuori, li cacciano fuori, come sta succedendo adesso. Quindi Piero, mi senti? Un po' chi sta in pronto? Alla radio. Mi senti? Ti sento? Sì, no, stavo dicendo, hai fatto non bene a chiamare. Ti sento però. Mi dispiace, ma non so. Ah, che... ti sento alla radio, ti ascolta alla radio. No, stavo dicendo, volevo dire che hai fatto bene a chiamare, se non eravamo stati chiari su questo punto, perché, come dire, per noi è la base del discorso, questa dell'assunzione to cure di tutto il precariato e di chiuderla con il precariato. Quindi ora diamo anche la parola a Carlo, ma non credo che su questo apriremo un dibattito, perché ovviamente parlare di precariato significa parlare di tagli che sono stati fatti sulla scuola e di rifinanziamento che nella scuola invece deve essere fatto, e quindi di assunzione e di copertura dei posti vacanti, questo è evidente. Quindi ti ringrazio per aver chiamato, perché evidentemente eravamo stati poco chiari. Grazie. Ciao. Sì, no, come dire, cioè, è chiaro, è ovvio che la nostra rivendicazione è da anni, insomma, l'assunzione su tutti quanti i posti vacanti e l'assunzione di tutti quanti i precari della scuola, insomma, l'avevo dato un po' per scontato, perché mi sembra che diciamo la trasmissione adesso come dire è impostata sulla questione del concorso. Io ci terrei appunto a fare chiarezza su una serie di punti, insomma, ecco. Posso, mi permetti di... Ti permettiamo. Dunque, no, io volevo aggiungere un'altra cosa che, insomma, sono partito dal fatto appunto che ci sentiamo umiliati, ecco, però vorrei, come dire, un po' allargare lo sguardo rispetto alla questione, al perché secondo noi è assolutamente fondamentale opporsi all'iniziativa del concorso. Io partirei proprio dalla cosa appunto che diceva Castello, io l'avrei detta immediatamente, insomma, adesso in questo intervento, ossia che una cosa che ormai, come dire, di cui ormai si parla poco, anzi che viene completamente appunto nascosta poi dai mezzi di informazione, è che la scuola, in particolare negli anni del governo Berlusconi, quindi del Ministero della Gelmini, è stata pesantissimamente tagliata. Cioè alla scuola sono stati sottratti 8 miliardi e mezzo circa di euro nell'arco sostanzialmente di 4 anni. Questa cosa ha comportato una serie di pesantissime novità nella scuola che subiscono tutti quanti gli insegnanti. Io ricordo che ormai appunto gli alunni soprattutto nelle prime sono in media 30 in ogni classe. Il che chiaramente poi parliamo delle prime e delle superiori in delle momento. Prime e delle superiori, sì, insomma, so anche di situazioni ugualmente così affollate sia nelle elementari che nelle medie. Chiaramente, come, vabbè, adesso questo è soltanto uno degli esempi che potrei fare di come la didattica è peggiorata nelle scuole italiane. Gli ascoltatori possono immaginare come una classe sovraffollata significa naturalmente minore capacità da parte dell'insegnante di seguire individualmente gli alunni nelle proprie difficoltà. Questo significa maggiori bocciature, poi sostanzialmente quindi maggiore probabilità di insuccesso scolastico. Qui stiamo parlando chiaramente dei figli degli ascoltatori, stiamo parlando nel senso, i tagli alla scuola ricadono direttamente su come dire, la qualità del nostro paese, della vita nel nostro paese. Per non parlare del famoso contributo volontario che viene chiesto, no, alle famiglie, proprio per sopperire a questi tagli pazzeschi per la scuola, e quindi questo simoro, no, un contributo volontario, non si capisce bene per quale motivo una famiglia debba pagare 100 euro in una scuola o 70 in un'altra, e se andiamo a vedere la scuola si regge su questi contributi, sul 75-80% dei soldi che entrano in una scuola sono dovuti a questa tassa in più che viene richiesta alle famiglie. Parlare anche del fatto, ed è un aspetto solo gestionale, però, che i tagli hanno comportato che tutti gli insegnanti venissero portati a 18 ore e che non ci fossero più colleghi con ore a disposizione per le supplenze brevi, per cui per le supplenze di quegli insegnanti che si assentano un giorno o due, e questo comporta il fatto che spesso in molte scuole, in molti ordini di scuole, i ragazzi vengano smistati, divisi in classi che hanno un insegnante, e questo insegnante è costretto ad accogliere accoglierli e a interrompere la loro lezione, a coinvolgere nuovi alunni che non conosce e rispetto ai quali ha degli obblighi di sorveglianza. Certo, quindi appunto io direi che complessivamente possiamo dire che da 4 anni la scuola italiana vive una situazione sostanzialmente d'emergenza, ci si arrabatta un po' come si riesce a gestire la situazione a causa di questi tagli che quindi ricadono sulla vita degli alunni, sulla qualità della didattica. Sul piano lavorativo però io vorrei aggiungere chiaramente che i tagli sono ricaduti soprattutto su noi precari, sulle opportunità di lavoro di noi precari. In quanto appunto sono state tagliate, i tagli che cosa sono i tagli? Sono cattedre che vengono cancellate a causa appunto soprattutto di accorpamenti per aumento di numero di alunni per classe, cancellazione delle ore a disposizione, e questi 8 miliardi hanno significato migliaia di posti di lavoro in meno. I dati sono anche abbastanza impressionanti, dai dati per esempio dei votanti alle elezioni delle RSU che ci sono state l'altro anno, risultano addirittura quasi più di 100.000 lavoratori in meno rispetto, cioè di votanti in meno e quindi di lavoratori in meno rispetto a quelle del 2006. Sì, se poi ci si aggiungono gli ATA diventano 140.000 più o meno. Appunto, quindi noi parliamo di come possiamo dire di un esodo, ecco, della cancellazione di migliaia, appunto, di decine di migliaia di posti di lavoro. Quindi che cosa è successo in questi 4 anni? Ecco, io questo ci tengo particolarmente a dirlo. Per i precari nelle graduatorie le opportunità di lavoro si sono viste ridurre in alcuni casi in modo drastico. La possibilità di stabilizzare la propria posizione, quindi di entrare in ruolo, si è ridotta moltissimo. E nonostante ciò, come poi ho detto prima, il numero di appunto di contratti precari che vengono fatti è comunque molto alto, però appunto moltissime persone hanno visto ridurre le proprie opportunità di lavoro, alcuni le hanno viste azzerare. Rispetto invece alla possibilità di entrare di ruolo, in moltissimi casi questa possibilità si è sostanzialmente azzerata. Io faccio l'esempio della mia graduatoria, che è quella di latino e italiano nel liceo scientifico. Quest'anno ne sono stati assunti 6 e parlo di una graduatoria che contiene più di 400 persone e che quindi praticamente non scorre più. L'esempio tipico è quella ulteriormente, come dire, negativa, è quella di greco e latino invece nel liceo classico, in cui non si assume più nessuno a tempo indeterminato da 4 anni. Quindi sostanzialmente il numero di posti si è ridotto a causa dei tagli. A questo punto che cosa succede? Ecco, io vorrei, cioè l'ascoltatore immagino che si stia chiedendo perché a questo punto, avendo le graduatorie piene zeppe di personale qualificato, che ha esperienza nella scuola, che ha fatto studi per insegnare, perché fare il concorso? Cioè non si potrebbe prendere direttamente, come si è fatto negli ultimi 10 anni, prendere direttamente dalle graduatorie un personale che, come dire, al quale, io lo ripeto, aspetterebbe soltanto semplicemente di diritto essere stabilizzato, cioè essere assunto a tempo indeterminato. Perché il concorso? Perché il ministro, a nostro modo di vedere, avendo poche briciole da dare a disposizione della scuola, sostanzialmente ci dice questo: vi do queste briciole e scannatevi per prendervele. Cioè, nel senso, appositamente quindi si vuole scatenare una guerra fra lavoratori precari nella scuola per quelle 4 briciole che ci danno. Io ci tengo soprattutto a questa cosa, cioè il concorso, la pratica del concorso in questo momento camuffa, nasconde i tagli. Pensiamo a questa cosa: io faccio il concorso per 11.000 e lo propagando come il concorsone. Se io avessi fatto 11.000 assunzioni dalle graduatorie, tutti quanti si sarebbero resi conto di quanto è poco, è una miseria quello che viene dato alla scuola. Siccome queste briciole, diciamo, apparentemente sono aperte a tutti quanti, tutti hanno la possibilità di accaparrarsele, ecco che quindi i tagli vengono camuffati. In futuro potranno essere pure meno di 11.000, perché il numero di pensionamenti andrà sempre più diminuendo. Quindi, ecco, il punto politico che ci sembra importante è questo, cioè i tagli vengono nascosti dalla pratica del concorso, perché la pratica del concorso è apparentemente, come dire, democratica, apre a tutti, tutti hanno una chance e nessuno si lamenta in un certo senso. Sì. certamente, e questo tuo punto di vista, questo modo che tu ci hai presentato è veramente illuminante. Io mi permetto di soffermarmi un attimo su una cosa che indubbiamente è marginale, però quello che mi viene fatto di domandarmi in questo momento è per quale motivo il ministro abbia voluto aprire il concorso non ai soli docenti abilitati, ma anche a tutti i laureati, solamente i laureati fino al 2003. E sinceramente la domanda che penso verrà spontanea all'ascoltatore è proprio quella di domandarsi: ma se abbiamo graduatorie piene di docenti qualificati e specializzati, perché dare la possibilità anche a tutti i laureati fino al 2003? In un'epoca di grande precariato, affollando le procedure concorsuali in una maniera credo insostenibile. Scusate se intervengo, appunto aggiungiamo una voce a questo dibattito, ci dovrebbe sentire Desideria, una compagna del coordinamento insegnanti precari e precarie, inoccupati e inoccupate di Firenze. Ci sei, Desideria? Pronto? Pronto, ci sei? Io ti sento, Elena, forse ecco, voi non mi sentite. Io ho sbagliato cursore, scusa, niente di grave. Ciao, ci hai seguito fino adesso? Sì, assolutamente, vi ho seguito. Niente, abbiamo deciso insomma di far intervenire anche Desideria perché stiamo andando verso un'assemblea nazionale dei precari e delle precarie che si terrà domenica prossima a Firenze, e non so se tu e Carlo volete subito dire qualcosa o se vogliamo andare a parlare dell'assemblea, delle motivazioni, Desideria, delle motivazioni. Sì, sì. Volentieri, appunto questa assemblea è sorta ovviamente da una necessità comune che abbiamo condiviso tra l'altro in una delle tante assemblee a Roma, cioè quella di organizzare una protesta che non fosse unicamente, diciamo, vertenzialistica intorno al concorso, e quindi di dare un indirizzo politico unitario alle diverse azioni legali che si dispiegheranno per forza ora che è uscito il bando del concorso. Sicuramente tantissimi gruppi di precari in tantissimi luoghi d'Italia adiranno ad azioni legali contro un bando iniquo e discriminatorio in tutti i sensi. Però questo a noi non basta, appunto, come potete capire, non ci basta l'avvertenza, non ci basta semplicemente la difesa, diciamo, di un sacrosanto diritto individuale. Noi vogliamo anche dare una veste politica, allargare il nostro orizzonte. Del resto il CPS si muove su un orizzonte ampio, e siccome la nostra è una lotta in difesa della scuola statale, non solo in difesa del nostro posto di lavoro, l'assemblea del 14 vuole dare anche questo senso e promuovere iniziative di lotta anche più ampie. E quindi diciamo appunto il percorso è quello poi che sta dentro un po' quello che stavamo dicendo adesso, cioè il fatto che la scuola ha subito una serie di tagli veramente cruenti, insomma questo l'abbiamo visto tutti dall'interno. Infatti, spero che qualcuno l'abbia visto anche dall'esterno, e poi si va verso in realtà poi una sorta, cioè una privatizzazione strisciante dell'istruzione pubblica. Infatti esattamente la Aprea, l'ex legge Aprea, adesso 953, sta passando praticamente in tutte le stanze del Parlamento quasi senza alcuna opposizione, ed è un progetto di legge scellerato che conferisce un'autonomia degli statuti assolutamente autonomi ad ogni singola scuola. Questo significa un'aziendalizzazione selvaggia, perché uno statuto completamente autonomo potrebbe, in teoria ed in pratica avverrà, conferire poteri pressoché assoluti al dirigente scolastico. Inoltre viene prevista, sempre dalla ex Aprea, l'inserzione di privati dentro quello che si chiama il consiglio d'amministrazione della scuola. Un recente emendamento ha tolto il diritto di parola a questi privati, ma costoro entrano nella scuola e rischiano di deciderne le sorti, e quindi è una svendita, una privatizzazione, come dicevi te giustamente, della scuola pubblica, anche contro l'ex disegno di legge Aprea, l'attuale 953. Noi vogliamo e dobbiamo mobilitarci, ci siamo mobilitati finora e non smetteremo, insomma, cioè, guardiamo anche al futuro della scuola statale. Sì, fra l'altro mi pare che questo c'entri anche molto con come si vive come lavoratori e lavoratrici nella scuola, nel senso che insomma c'è un ricatto sempre maggiore che cade sui lavoratori, anche su quelli che insomma riescano ad averlo un posto di lavoro in questa scuola. Assolutamente. Questo è, cioè, i dirigenti per esempio hanno già molti poteri adesso, questi poteri andrebbero a salire, ma soprattutto per tornare al discorso del concorso, la legge Aprea prevede un accesso al lavoro molto diverso da quello a cui noi siamo abituati. Sì, questo è uno degli elementi che è stato accantonato per il momento, diciamo, però è allo spirito della legge Aprea, poi è stato accantonato appunto solo così temporaneamente. Lo spirito della legge Aprea e anche la lettera diceva che gli insegnanti venissero chiamati personalmente dai presidi, quindi abolizione delle graduatorie, abolizione di quel minimo di trasparenza che le graduatorie pubbliche con un punteggio visibile a tutti possono assicurare, e istituzionalizzazione del nepotismo, del clientelismo e quant'altro, perché se o il singolo preside può chiamare a sua assoluta discrezione il singolo docente, non si sa ovviamente secondo quali criteri un preside chiami un docente, volendo possono essere anche criteri assolutamente non condivisibili, ma inoltre, come dicevi te, il docente a questo punto è soggetto in tutto e per tutto alla potestà assoluta del preside, che decide del suo destino a prescindere da ogni controllo pubblico. Sarebbe un naufragio assoluto la vera distruzione della scuola pubblica e della libertà di insegnamento che la scuola statale ancora, nel bene o nel male, può assicurare. Sì, permettimi solo una notazione breve: non diventerebbe più la scuola dello Stato, la scuola della Costituzione, ma diventerebbero tante scuole formate a immagini di singoli presidi che avrebbero a quel punto la discrezionalità di selezionare i docenti e di indirizzare in qualche modo attraverso questo strumento l'offerta formativa, proponendone di infinitamente diversificate. Assolutamente, si configurerebbe questo orizzonte disastroso, assolutamente. E mi pare che la Lombardia sia all'avanguardia, tra virgolette, in questo campo. Mi pare che la Prea sia finita lì e che voglia sperimentare proprio questa scuola privata. Cioè, hanno già tolto il nome al ministero, no? E quindi adesso la scuola deve diventare privata. Siccome i tempi, insomma, della radio sono impietosi, nel senso sono le 16:47, vi inviterei a tornare pienamente, insomma, sull'argomento del concorso, perché vi assicuriamo, insomma, voglio dire, liberi microfoni tutti i martedì dalle 16 alle 17, nel senso che noi continueremo a parlare di scuola, ma se c'è qualcosa e vogliamo approfondire sul concorso, oggi potrebbe essere, insomma, l'occasione più adatta. Questo lo dico, insomma, a tutte le persone che mi circondano in questo momento. Chi è che vuol parlare? Non so se, appunto, se Desideria vuole dire qualcos'altro, se no posso anche... Sì, io volevo aggiungere una cosa veloce, se possibile. Vai. Che ieri sera si è tenuto a Firenze un incontro fra, appunto, noi precari fiorentini e due onorevoli del PD. Potete immaginare in quale clima, non dico altro. E comunque è stato un incontro proficuo, perché l'onorevole Rosa De Pasquale si è impegnata, e quindi io voglio anche pubblicamente dichiararlo in modo che così il suo impegno rimanga scritto nell'etere, si è impegnata a promuovere in Parlamento due iniziative, in particolare una, non mi ricordo se una mozione o un'interrogazione, sul fatto che i posti messi a concorso da Profumo sono addirittura inferiori a quelli previsti al regime ordinario dalla Gelmini. Quindi di fatto il concorso si configura come un ulteriore taglio di posti di lavoro, malgrado la propaganda. Questa è una, e l'altra è invece un'altra iniziativa, appunto, su cui si è impegnata la De Pasquale, che è quella di spingere il ministro, benché sia troppo tardi, a aprire concorsi solo sulle graduatorie già esaurite. Quindi, diciamo, meglio che nulla, commentiamo sì. Così. Speriamo sempre anche che quando un parlamentare del PD prende un'iniziativa poi gli vada dietro il suo partito, perché normalmente fanno il contrario, e quindi abbiamo anime belle e tutto finisce lì, sostanzialmente. E avverrà così, immaginiamo, però diciamo almeno abbiamo strappato una missione di colpevolezza, insomma. Una missione di colpevolezza, direi, no? In qualche modo sì. Carlo, volevi aggiungere qualcosa? Ti ritengo in linea, Desideria, quindi se vuoi sì. Puoi intervenire. Sì, grazie. Sì, cioè, se posso, io entrerei un po' appunto nel merito un po' del concorso, perché diciamo la nostra opposizione è al concorso, indipendentemente come questo verrà espletato. Però un po' per capire, secondo me, ecco, come dire, l'ideologia, secondo me, barbarica, diciamo così, che è alla base di questa, di questa iniziativa del Ministero. Bisogna andare un po' a vedere pure come viene svolto questo, come viene svolto questa prova, che è una prova, ecco, a me spesso capita, quando parlo con i miei colleghi di ruolo, di sentire che anche loro hanno avuto vicende, come dire, travagliate. Conosco persone che hanno dovuto rifare le prove più volte, il concorso più volte prima di entrare di ruolo, no? Quindi ecco, noi non abbiamo, come dire, non ci sentiamo vittima, no, di qualcosa che nella scuola non è mai avvenuto. Nella scuola, purtroppo, una scuola italiana, abusi di questo tipo sono sempre, sono stati spesso, insomma, all'ordine del giorno, anche se i tagli questa volta sono stati forse più pesanti che in altre fasi. Però secondo me, ecco, come dire, la qualità di questo concorso fa, come dire, c'è proprio un salto di qualità, cioè il tipo di prove che ci verranno sottoposte, secondo me, fanno fare un salto di qualità nell'abbrutimento a cui noi verremo sottoposti. Io spero, cioè spero, io credo ancora che qualche possibilità di evitarlo ci sia, però insomma è interessante, insomma, andare a vedere. Io così, diciamo, più per curiosità che per altro, ho comprato questa ecco, poi questa è una cosa interessante, è un po', come dire, però dà un po' il polso di quali sono gli interessi che si giocano su questa cosa del concorso, no? Le librerie il giorno dopo erano piene zeppe, e il giorno dopo, dico, della pubblicazione del bando, erano piene zeppe di questi libri pubblicati da queste case editrici specializzate, che quindi stanno facendo un sacco di soldi nel pubblicare questa roba qua. E questi qua praticamente sono i test, sono, diciamo, test simili a quelli che ci verranno sottoposti. Ricordo per gli ascoltatori che non si tratta, ecco, come dire, io sono un insegnante di italiano e latino, no? L'ascoltatore dirà questo: probabilmente, anzi sicuramente, al concorso per passare gli faranno domande di italiano e latino. Invece no, ci sarà una prova preselettiva unica per tutte le classi d'abilitazione, che comprenderà appunto esercizi di matematica, di logica, di informatica, di lingua, e poi non mi ricordo nemmeno più bene di che altro. Siccome sono andato a comprarlo, io volevo un po', voi immaginate, appunto, dico agli ascoltatori, insomma, ecco, di immaginare, che ne so, un insegnante di italiano, che si trova a fare, ecco, delle domande di questo tipo. Ecco, ricordo una cosa: le domande saranno 50, è un quiz a risposta multipla con 4 opzioni e vanno fatte in 50 minuti. C'è un computer, tipo quelli di Mike Buongiorno, non tipo quelli, sì, di Jerry Scotti, cioè conta la velocità. Sì, esattamente, quindi conterà molti, no, questo lo diciamo con ironia, però secondo me invece è un punto importante, cioè conterà, diciamo, come dire, la capacità di essere esercitati a fare questa roba qua. Quindi chi si sarà appunto esercitato, si sarà sbattuto su questi quiz, riuscirà a passare. Gli altri che avranno avuto insomma da lavorare, o comunque che ci mettono un po' di più a pensare, non passeranno. Ricordiamo che sono fatti al computer, il computer si interromperà allo scadere dei 50 minuti, quindi, come dire, sarà inesorabile su questa cosa. Ci puoi leggere, Carlo, qualche test, sì, qualche, sì, quiz? Stavo cercando, allora, vabbè, ne leggo uno un po' a caso perché ho perso quello del... Il gregge? Quello del gregge. vabbè, allora vi leggo questo qui. Allora, scusatemi un attimo, scusate, perdo un attimo tempo. Eccolo, scusate. Allora, un intero gregge di pecore deve essere spartito tra i tre figli di un pastore in modo che nessuno di essi abbia meno di un quarto del totale e che il numero di pecore assegnate a uno qualunque dei figli sia pari alla media di pecore assegnate agli altri due. Quale quota del gregge potrebbe così possedere il figlio primogenito? A, non più di 3/8, B, la stessa del fratello minore, C, 1/4, 1/3 o 5/12, D, 1/2, E, non è possibile determinarlo. Questa è da svolgere in un minuto. Ve ne leggo soltanto un'altra. Ma tu odi la matematica, dillo. No, non la odio, però odia la matematica, che ha fatto questo quiz, odia la matematica. Fabrizio, che è un insegnante di matematica, poi magari ci spiega come farlo. Ve ne faccio un'altra. Trovare l'alternativa che completa correttamente le seguenti proposizioni tra parole. Tiepido sta a caldo come X sta a Y. A, X uguale estasi, Y uguale gioia. B, X uguale bello, Y uguale stupendo. C, X bollente, Y freddo. D, X uguale estate, Y uguale sole. E, X uguale gelido, Y uguale freddo. Non ce la faccio, io non ce la farò mai. Non ce la fa. Sono soltanto due esempi, insomma, di un su questo libro, tutto ovviamente fatto in questo modo, ci scherziamo, ma purtroppo sì. La scuola sta andando tutta verso questa direzione, perché vogliono che valutiamo i nostri ragazzi in questo modo, e dell'invalsi un giorno ne parleremo. Vogliono valutare i precari e le precarie in questo modo. Vi dico che io l'anno scorso ho fatto un concorso, per l'amor del cielo, da privilegiata insegnante di ruolo per insegnare all'estero, posti tutti tagliati alla spending review, quindi tutti i soldi del concorso fatto l'anno scorso buttati via, e i test di lingua erano così, cioè è una cosa veramente di una cretineria assoluta. Dico, per esempio, io l'ho fatto per spagnolo, il concorso precedente era su Borges, il corso di quest'anno era tipo l'istruzione del telefonino, la comprensione del testo e l'istruzione del telefonino, delle cose assurde, tutto questo per andare a insegnare letteratura italiana in paesi di lingua spagnola. Quindi è proprio un indirizzo generale di abbrutimento, non so come, immiserimento culturale assoluto. Sì, ecco, esattamente, Elena. Io questo, insomma, li leggiamo, ci ridiamo sopra, però se ci riflettiamo, ecco, io invito gli ascoltatori a riflettere che persone, appunto, che insegnano da anni si devono sottoporre a questa roba qua, che rasenta obiettivamente il livello dell'indovinello, sono degli indovinelli. E a fronte di questo, per capire quale tipo di profilo di insegnante si va a selezionare, può essere utile anche dare un'occhiata alla tabella di valutazione dei titoli per il concorso, che valgono su un massimo di 20 punti per i titoli e su 100 per il concorso. Un dottorato di ricerca vale 3 punti e un qualunque numero di pubblicazioni non può superare il massimo di 3 punti, quindi una persona che abbia una carriera universitaria o delle pubblicazioni alle spalle può conquistare al massimo 6 punti su 100. No, e non c'è nessun punteggio per l'esperienza di insegnamento. Quindi per il servizio, e questo io lo trovo la cosa più scandalosa di tutte. Vorrei anche dare la parola a chi, insomma, qui ci ricorda che nella scuola non ci sono solo gli insegnanti a lavorarci, e poi magari dopo chiudiamo con Desideria, che ci dice l'ordine del giorno dell'assemblea di domenica prossima, o più o meno. Intanto però sentiamo questa cosa. Allora, appunto, anche Carlo diceva, no, di questo mettere i lavoratori gli uni contro gli altri. Allora, io faccio parte del personale ATA, che ovviamente in questo contesto del concorso non c'entra, o apparentemente non c'entra, però sono andata a trovare su alcuni così siti online, ma così sono notizie che veramente non sono molto circolate e che quindi avremo modo anche di approfondire. Però, appunto, siccome le iscrizioni online, cioè tutta questa procedura, ora non ve la sto a spiegare, ci fermeremo in un altro momento, comunque c'è un processo di identificazione che deve avvenire anche da parte delle segreterie scolastiche. Beh, le segreterie scolastiche, molte delle segreterie il sabato sono chiuse, perché molti istituti superiori, le elementari, insomma, c'è un orario che si svolge su 5 giorni. Beh, sembrerebbe che qui il codice Dagons addirittura dice che ha fatto ispezionare alcune scuole che si sono rifiutate di fare questa identificazione, e che quindi il Codacons vuole, a dire, per vie legali addirittura, dice, questo è un grave disservizio, che quindi significa interruzione di pubblico servizio. Vorrei solo ricordare che, appunto, i tagli ci sono stati anche nel personale ATA. Al momento non ci sono convocazioni, il personale ATA, io parlo di soprattutto assistenti amministrativi e tecnici, cioè tutta questa procedura dei docenti inidonei e degli insegnanti tecnico-pratici che devono dovrebbero andare a prendere posto obbligatoriamente, per giunta poi anche di questo parleremo, di noi assistenti amministrativi e tecnici, quindi c'è del personale docente che si vuole deportare praticamente nelle fasce del personale ATA. E beh, appunto, ora a me, così, pur non avendo ancora notizie sufficienti per esprimere un parere oggettivo, però da precaria ATA, che so che le segreterie in questo momento sono nel caos perché oltre ai tagli non ci sono proprio, non ci sono le chiamate, quindi lavorano a regime dimezzato, si può dire, gli si va a chiedere oltretutto di aprire un giorno la scuola per attivare le procedure di identificazione al polis, e ci chiediamo noi chi, con quali soldi, perché, no? Cioè, come se ci si dovesse noi sacrificare, immolare per il concorso. E anche qui, no? Non è che noi ce l'abbiamo con i docenti che devono identificarsi, ma veramente non si possono richiedere dei sacrifici ulteriori ai lavoratori che già ne fanno abbastanza. E quindi guerra tra poveri su guerra tra poveri. Desideria, sono le 17, noi siamo assolutamente in chiusura per lasciare lo spazio al martedì autogestito da femministe e lesbiche di Radio Onda Rossa, ma se vuoi chiudere in due minuti dicendoci di cosa parlerete domenica, magari poi ci risentiremo per così ci racconterete di cosa avete parlato domenica. Ovviamente il no al concorso senza se senza ma è il punto centrale della nostra assemblea, parleremo di questo e di tutte le azioni legali e politiche contro questo concorso che riteniamo del tutto illegittimo. Altre iniziative di lotta e di protesta che naturalmente si rendono necessarie, tra cui l'adesione e la partecipazione al No Monty Day che è stato indetto, no, per il 27 ottobre a Roma, tutte le mobilitazioni possibili e immaginabili contro l'ex disegno di legge Aprea 953 di cui parlavo prima, e poi la discussione dei mille problemi di cui voi avete dato così, a cui voi avete dato una certa risonanza, della scuola, insomma, perché è molteplice il nostro ordine del giorno, ma i punti principali sono quelli che vi ho appena detto, e il no al concorso, ripeto, senza se e senza ma. Noi ti ringraziamo per questa partecipazione, ringraziamo Carlo che è stato qui con noi, ma penso che insomma non sarà è la prima ma non sarà l'ultima volta, e ringraziamo le ascoltatrici e gli ascoltatori, speriamo di essere stati sufficientemente chiari o almeno un po' chiari e chiare, e vi chiediamo di scriverci ora di buco @ondarossa.info, se ci dite che siamo confusi, che non quello che volete, oppure insomma proposte, argomenti, quello che volete. Apro i microfoni, così salutiamo tutti e tutte, e l'appuntamento è per martedì prossimo alle 16 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao. Ciao a tutti e tutte. Arrivederci. Ciao, arrivederci. E quindi una canzoncina e poi i microfoni passano. Cara maestra, un giorno mi insegnavi che a questo mondo noi siamo tutti uguali, ma quando entrava in classe il direttore, tu ci facevi alzare tutti in piedi, e quando entrava in classe il bidello, ci permettevi di restar seduti. Mio buon curato, dicevi che